La Biblioteca Lame, siamo venuti a sapere all'inizio del 2017 che sarebbe stata esternalizzata, perché avevano messo fuori un piano programma che scadeva il 19, e quindi praticamente tutta la biblioteca sarebbe stata esternalizzata ad una cooperativa per la gestione. La scelta della Malservisi all'epoca venne giustificata inizialmente con l'idea che era una biblioteca un po' in crisi per il pensionamento del personale e perché c'era stato, se mi ricordo, una qualche percentuale di diminuzione dei prestiti. Poi partita la polemica, legata anche a Collezione Civica, l'azione che abbiamo fatto, l'abbraccio della biblioteca e quant'altro, e invece venne fuori che si trattava di un progetto sperimentale. E allora all'epoca chiedemmo, senza peraltro avere nessuna risposta, poi cambiò anche l'assessore di riferimento, quali sarebbero stati i criteri, non quantitativi ma qualitativi, per andare a vedere se la sperimentazione, questo progetto sperimentale di nuovo genere, sarebbe stato valutato positivamente o meno. Giunti a qualche mese, nuovo piano programma triennale, e ci troviamo invece di fronte ad un'uscita all'interno di questo lungo piano programma di una situazione che diciamo che è parodistica, è una parodia, perché si dice che è andata bene, si dice che va tutto bene, ma non si dice perché e si dice che non la si farà. A questo punto ci si può aspettare un po' di tutto. Alcuni elementi li ha già citati lei su quello che è successo anche per far cambiare eventualmente idea al comune. È cambiato l'assessore, sono cambiate anche le politiche del personale di assunzione. Lei lo ha capito? Qua si dice che verranno assunti nuovi elementi, verrà assunto un nuovo personale. Però la questione diventa se si farà effettivamente. Perché vede, non è tanto una questione di assunzione di personale, ma è proprio di gestione del bene, perché le biblioteche non sono più le biblioteche di una volta legate semplicemente al fatto di prestito libri. Qua sono proprio dei presidi di quartiere, soprattutto in periferia, quindi sono legate alle attività che non sono propriamente di prestito di libro, ma sono di comunità, con proprio dei presidi territoriali. E a questo punto però, nel momento in cui, ad esempio, io mi domando, nel momento in cui c'è il personale, lo stanno formando adeguatamente? C'è una politica reale di intervento in questo senso? Perché la mia impressione invece è che di fronte a dei testi che sono in contraddizione con se stessi, fondamentalmente non ci sia una programmazione di fondo, eh? E quindi si può tranquillamente cambiare, cambia l'assessore, si cambia indirizzo e lo si cambia senza dire né perché né per come e neanche in che direzione si vada. Quindi io ho la stranissima impressione che ci troviamo di fronte non a un cambio di idea, ma a un non avere idee, che fosse una cosa un po' peggiore. In qualche modo la mobilitazione non può aver indotto anche il comune a ripensarci? Ah, questo io onestamente non lo so. Certamente in questo momento probabilmente hanno percepito prima l'idea di poter fare a livello amministrativo un cambiamento di indirizzo politico, perché anche come hanno scelto la Malservisi, come l'hanno impostata all'inizio, sembrava che fosse semplicemente una questione di natura amministrativa, si prendeva una decisione e come andava, perché all'inizio addirittura disse che bisognava mantenere i presidi territoriali, ma siccome non c'erano soldi bisognava esternalizzare, perché così si risparmiava l'IVA e si risparmiava sul personale, un personale che chiaramente è in invecchiamento, ma vedete, sono i vecchi bibliotecari militanti che avevano iniziato a lavorare negli anni 70-80, questi, quindi quelli che quando si parla di biblioteca presidio sanno di cosa stiamo parlando. Fecero questo cambiamento amministrativo, probabilmente a un certo punto l'hanno percepito come un problema anche di natura elettorale. Io l'ho pensata così, ma forse sono un pochino troppo cattivo e troppo cinico. Che ci sia però una vera adesione a un ripensamento di tutto il progetto delle biblioteche, io onestamente non lo vedo, non in frasi così contraddittorie, insomma. In questo momento comunque la gestione della biblioteca Lame Manservisi è ancora in outsourcing, come la chiamano, cioè ancora esternalizzata? Sì, ancora esternalizzata. Ma vedi, qui non si tratta tanto di prendersela con coloro che lavorano nelle cooperative, perché vede, tutto quello che si sta facendo, ma l'idea che si possa esternalizzare un lavoro estremamente specialistico di militanza, di presenza sul territorio, sarebbe carino, ma lei pensi di essere un bibliotecario di una cooperativa con cui io ho completa solidarietà, perché spesso sono persone preparatissime e che gli piacerebbe fare quello lavoro, poi si ritrovano ad essere 4 ore in una biblioteca, 5 ore in un'altra, 10 ore in un'altra ancora, orari di lavoro spezzettati, garanzia di lavoro a lungo termine, quindi anche di preparazione, formazione propria, ridotta a questo punto al limite, e le notizie che io posso darle è che ad un certo punto, con tutta probabilità, se uno ha la possibilità di cambiare lavoro e trovare un'altra sistemazione un pochino più sicura, un pochino più adeguata, ma non soltanto in termini di lavoro sicuro, ma in termini proprio anche di soddisfazione propria nel saper applicare le proprie competenze, immagino che anche la Malservisi ci sia stata, ad esempio, mi pare chi doveva occuparsene, che fondamentalmente immediatamente appena trovata un'altra situazione, della cooperativa è andata via, ma con tutta la solidarietà verso queste persone,